Concittadini, avrete visto questo cartoncino ai vostri posti? Contiene un saluto, un ringraziamento che io indirizzo a voi tutti. Il cartoncino è nobilitato da un disegno di Bruno Caruso. Questo riconoscimento che mi viene dal Consiglio Comunale di Cefalù segna il mio ritorno a casa, in famiglia. Esso mi onora, mi esalta, mi commuove. Cefalù, dopo quello di mia madre, e l'altro grembo amniotico. Io considero voi miei consanguinei. Essere cefaludese è un privilegio, ma si badi, non del tutto comodo, anzi è arduo, impegnativo, come essere figlio di un genitore importante o essere marito, compagno di una bella donna. Occorre dimostrarsi sempre all'altezza del ruolo, non scadere mai di stile. Con Cefalù io ho un castissimo rapporto, sublimemente carnale, sublimemente cannibalesco, di incorporazione reciproca. Cefalù possiede me, io posseggo Cefalù. Sono lacci e allacci indissolubili. Quando io ho intitolato il mio ultimo librino antologico Passi a piedi, passi a memoria, intendevo esprimere un'idea del camminare, del mio camminare a Cefalù. Camminare è qui metafora di vivere, un camminare che si convertiva subito in gaudiosi moti ideativi, in campate di fantasia. Il mio vivere a Cefalù è stato quasi sempre, miracolosamente, un camminare senza peso, è stato un levitare. Ringrazio il sindaco, avvocato Giuseppe Muffoletto, il vice sindaco, avvocato Pino Corsello, la Giunta, il professore Cristina, l'onorevole Gioacchino Ventimiglia, il cavaliere Saverio Portera. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale di Cefalù per avermi toccato con la sua magnanimità. Se il sindaco, se la Giunta, se il Consiglio pensano che io gli possa essere utile in qualche modo, dispongano pure di me. Ringrazio lo scultore Tommaso Geraci che ha virtuosamente sbalzato la targa di bronzo e argento. Ringrazio Filippo Testa che ne ha dettato le epigrafe in latino, ispirata e fin troppo generosa. Dice: Cefalù al diletto figlio Antonio Castelli augura ogni prosperità. A te, mio figlio di latte, io ho dato il nutrimento. Tu, con i tuoi scritti meravigliosi per grazia e dottrina, hai accresciuto la mia fama. Filippo Testa è un umanista di raro pregio, didatta irregolare quanto sapiente. È merito suo se tanti nostri ragazzi si sono ritrovati o si ritrovano tuttora un cervello e una ragione di vita e di lavoro. Ringrazio Steno Vazzana, personalità di ingegno vividissimo, con molti doni, è dantista autorevole, ha vari originali saggi, tra cui un eccellente studio su Pascoli, è poeta sopraffino e docente assai apprezzato. Ringrazio Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia è il più grande scrittore italiano vivente, è un maestro. Per l'Italia e l'Europa è una coscienza. Per la Sicilia è una coscienza e anche la seconda vista, spesso la più valida, qualche volta, ahimè, la sola valida. Ringrazio i professori Pino Di Francesca, Pietro Saia, Filippo Testa, che impegnandosi con intelligente alacrità mi hanno regalato questa straordinaria giornata. Ringrazio il Circolo Unione, il garbo da signori del suo presidente, l'avvocato Tano Misuraca, e del suo vicepresidente, il cavaliere Giovanni Agnello. Ringrazio il commissario dell'azienda di soggiorno, dottor Giacalone, il direttore, dottor Terracina, l'amico Franco Geraci. Ancora tutta la mia riconoscenza. Grazie.